quanti anni son passati, quante lacrime cadute dal cielo per Kurdistan. Quanti occhi hanno visto il terrore sulla pelle e la gente piange ancora. Quella stella del mattino guarda il dramma di chi spera un domani senza violenza. E noi non possiamo aspettare. E noi rompiamo le catene del silenzio e gridiamo forte al mondo questa rabbia che c'è dentro di noi e diciamo basta a questi crimini e torture al Kurdistan. Libertà, apri la porta, fai presto non aspettare, la paura deve andare via. Le tue ali sono spezzate, sento addosso la tristezza, come il cielo del Kurdistan. Questa terra non si incatena, non si tocca e non si spezza nell'attesa della libertà. E noi non possiamo aspettare. E noi rompiamo le catene del silenzio. E gridiamo forte al mondo questa rabbia che c'è dentro di noi e diciamo basta a questi crimini e torture al Kurdistan. Ti porto il mio sorriso e accarezzo il tuo viso perché noi abbiamo un'anima. Chi calpesta i tuoi diritti, chi ha rubato la tua terra dovrà essere condannato. Noi siamo gente per la pace e forte noi gridiamo per la tua libertà. E noi non possiamo aspettare. E noi